È un po' curioso, lo ammetterete, è un po' curioso il cancan che si è fatto sulle dichiarazioni della senatrice Menapace a proposito delle frecce tricolori. La pattuglia acrobatica aerea usa a esibirsi nei cievi della penisola in occasione di parate e altre manifestazioni più o meno marziali. In fondo, la mancata presidente della Commissione Difesa del Senato non aveva detto niente di straordinario. È assolutamente ovvio che quel tipo di esibizioni, oltre che affatto inutili sotto ogni profilo militare, sono costose, inquinanti e pericolose, visto il rischio già largamente sperimentato che diano luogo a tremendi disastri. Eppure sembra che quelle innocue constatazioni abbiano contribuito non poco, forse più di quelle tanto più toste su Israele e sull'Iraq contenute nella stessa intervista, a far perdere all'ingenuo esponente di Rifondazione la poltrona sulla quale si sentiva già stabilmente insediata. È sulle frecce tricolori che i giornali hanno fatto il titolo il giorno dopo, ed è ad esse che si sono riferiti tutti quando, grazie al salto della quaglia di un senatore centrista della maggioranza, quella candidatura è saltata. Tutto questo è naturalmente assai deprecabile. Spiace che ci siano dei senatori che interpretano con tanta disinvoltura il loro mandato e spiace che a una rispettabile esponente del Movimento per la Pace sia preclusa un'assunzione di responsabilità in un campo in cui avrebbe certamente introdotto delle interessanti innovazioni. È vero che una scelta pacifista mal si declina con un impegno in un corpo legislativo che si occupa essenzialmente di cose militari, ma come diceva, credo, Clemenceau, la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai generali, e un approccio diverso dal tradizionale ossequio alla volontà degli stati maggiori avrebbe fatto al nostro Parlamento un monte di bene. La Menapace, d'altronde, non è mai stata una pacifista integrale, una fautrice del no a tutti gli eserciti e stop, ha sempre rivendicato a buon diritto al proprio impegno diretto e armato nella resistenza, e anche se il suo percorso politico è stato all'incirca l'opposto del mio, personalmente resto convinto che di lei in quel ruolo ci si sarebbe potuti fidare. Molto di più, per intenderci, e di quanto ci si possa fidare di certi antimilitaristi integrali o ex antimilitaristi integrali come il noto Marco Pannella, che da un po' si è messo a rilasciare interviste in cui spiega che l'interpretazione letterale dell'articolo 11 della Costituzione, quello dell'Italia che ripudia la guerra, non è sostenibile. Ma lasciamo pure perdere e torniamo, senza lasciarci distrarre, alle frecce tricolori. Alla sproporzione che sembra intercorrere tra l'ovvietà delle dichiarazioni rilasciate in merito della propria Menapace e lo scandalo che a quanto pare hanno suscitato. Forse una spiegazione la si può rintracciare nel fatto che i pacifisti, nella loro seriosità, tendono ad attribuire alla controparte tutta la coerenza che ci mettono loro. Non gli passa neanche per la testa l'ipotesi che gli uomini in uniforme e i loro zelatori civili, chiamiamoli così, non siano, come vuole la mitologia militare, tutti dei duri, dei perfetti uomini d'azione insensibili a ogni lusinga che non sia quella della dedizione al dovere. Che se c'è una cosa per cui tutti costoro, in tutte le epoche, in tutti i paesi, vanno letteralmente matti, è appunto l'esibizione di sé dei propri simboli, le bandiere colorate che galariscono festose al vento, le uniformi cariche di orpelli, le medaglie, gli alamari, i pennacchi, tutti gli allegri parafernalia di una professione che in sé proprio allegra non è. E le parate naturalmente, e le esibizioni. È vero, è verissimo che a stretto rigore di logica quelle cerimonie non servono a niente e rappresentano quindi un inutile sciupio di risorse che meglio potrebbe essere impiegate, se ci si può calare in quella logica, per rafforzare gli effettivi, mettere a punto i cannoni, affilare le baionette o prendere qualsiasi altro provvedimento si ritenga necessario per soverchiare il nemico. I nemici sono gente scaltra e diffidente. Non si lasciano impressionare da un'esibizione di truppe in alto uniforme lungo le vie cittadine, dalle evoluzioni più brillanti di una pattuglia alata nei cieli, vanno sul concreto loro. E più che mediante manifestazioni eminentemente simboliche, e bisognerebbe cercare di eventuzzarli altrettanto misure altrettanto, apprestando, scusate, misure altrettanto concrete. Ma è anche vero che le parate, le esibizioni aeree fanno spettacolo, e nella società dello spettacolo anche il piano simbolico ha la sua importanza. E poi quella di fare la faccia feroce è un'antica tradizione militare. È qualcosa che rientra nei cromosomi stessi della nostra specie, non per nulla gli scimmioni antropoidi, che geneticamente parlando sono nostri parenti stretti, prima di passare le vie di fatto contro i loro simili, impiegano una quantità di tempo a battersi il petto con le pugna, a lanciare innocue sia pur spaventose grida di guerra. È un'attività, a pensarci, molto meno pericolosa per tutti che quella di menarsi sul serio. E visto che per ovvie ragioni di decoro non si può chiedere ai moderni professionisti della difesa di fare altrettanto, forse sarebbe meglio lasciare che si trastullino indisturbati con le loro festose esibizioni. In fondo, se un'attività aviatoria militare ha proprio da esserci, meglio le acrobazie delle frecce tricolori che le missioni di bombardamento. I rischi per le popolazioni civili coinvolte sono sicuramente minori. E a proposito, un'ultima osservazione. Tra le varie prese di posizione relative alle vicende della Commissione Difesa in Senato, va ricordato quella del ministro Di Pietro, fondatore e leader indiscusso del partito a cui appartiene il senatore, che su pressanti richieste, dice lui, di imprecisati ambienti militari, ha fatto lo sgambetto alla mena pace e con i voti dell'opposizione si è fatto eleggere lui. Dice dunque il Di Pietro che, pur agendo in modo discutibile, costui aveva anche i suoi motivi. Si è comportato così, letterale, per fare in modo che ai vertici della Commissione Difesa andasse un esponente più moderato, più vicino ai valori e alle istanze espresse dalle forze armate. E questa, ci perdoni il ministro, è un po' una gaffe. Perché assimilare ai valori delle forze armate quelli di un parlamentare che fino all'anno scorso faceva parte di Forza Italia, poi è passato nella Nuova Democrazia Cristiana, quindi ha approdato a Italia dei Valori e al primo voto importante si è schierato con la coalizione d'origine, assimilare i valori di costui a quelli delle forze armate significa dar voce a quanti rimarcano e deprecano nei nostri eserciti una certa qual tendenza al cambio di fronte. Che è in fondo una calunnia, perché i ribaltoni e i giri di valzer a cui questo tipo di critica si riferisce, nelle due guerre mondiali per esempio, o prima dell'unità, ai tempi degli eserciti sabaudi nei conflitti settecenteschi, quando era rarissimo che un duca di Savoia finisse una guerra dalla stessa parte con cui l'aveva cominciata, questo tipo di ribaltoni non sono mai stati di iniziativa militare, ma sempre comunque voluti da un ceto dirigente che non ha mai rinunciato neanche sul piano internazionale alla doppiezza e al trasformismo che lo ha sempre caratterizzato su quello interno. Basta pensare d'altronde a tutto quello che sta succedendo in questi giorni, a poco più di un mese dal voto del 9 e del 10 aprile. Tra rinvii a tempo indeterminato del mantenimento delle promesse fatte, parole in libertà, richieste di verifica, interviste presidenziali a Pera, seguite da altrettanto presidenziali altrettanto a Pera smentite. È difficile convincersi che sia davvero cambiato qualcosa, perché l'unica vera coerenza dei nostri politici, non si scappa, è quella con cui si rifiutano di emendarsi dai loro atteggiamenti di sempre.